nessuno 10? C'è qualcuno su 10? Attenzione canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10, c'è qualcuno per un controllo? Attenzione canale 10. Attenzione canale 10. Avanti, chi c'è? Stavo uscendo, se può dare un controllo. Non ho capito chi sei. Sono Bruno. Stavo provando un apparecchio. Non la posso apparecchio se sto uscendo, come sto uscendo. Io qua ti sento basso, appena comprensibile, ma c'è un po' di QRM, quindi non riesco a riceverti bene. Mi arrivi con un Santiago 5 qua. Ascolta, ma dove sei tu? A Sassari? Io sono a Prunizzetta. Sì, aspetta, sta con lineare, non sa mai se funziona male. Perché sto provando un linearetto piccolino in macchina, perché in macchina non mi sentivano mai. Ho attaccato questo linearetto, adesso lo stacco un attimino, non so mai che magari sia dovuto a questo affare qua, perché, ho detto, attaccato adesso, non mi sento male, un attimo. Considera che io ho un antennino piccolo, però... Secondo dove sei qua, non so se dipende anche dalla mia di antenna, perché io sono con una postazione d'emergenza per adesso. Allora, adesso ho staccato tutto, sto uscendo dalla macchina. Ha registrato, un attimo. Ciao Gianni. Ciao Carlo, ciao Bruno, ciao a tutti gli altri amici, dai, sono entrato adesso, ho acceso in questo momento. Avanti di nuovo Carlo. Stavo parlando appena da pochi minuti, ero al computer con la radio accesa, non sentivo nessuno, poi ho sentito una portante e niente, però lo sento molto molto basso io Bruno. No, va bene. Già, adesso sono sotto casa tua, però sto salendo su dalla luna al sole, prova. C'è l'arco di voce, ma c'è l'arco di tuo oppure è il microfono che ti fa l'arco? È il solito baracchino senza niente. Ascolta già, io il linearetto adesso, siccome non è nessuno la macchina, ho provato adesso il linearetto, adesso io ce l'ho staccato, adesso lo attacco, così tu vedi un po' se c'è un po' di differenza, se no è inutile che lo senta, perché ripeto, me l'hanno prestato per provare, così cioè, mi sentivano un po' meglio. Però ti devi allontanare perché qua stai arrivando con la scala, sei sotto casa, quindi non posso darti nessun controllo. Allontanati, poi quando sei a luna sole dove vai tu, mi chiami. Aspetta, Bruno. Adesso è attaccato, dimmi. Fermati dove sei, ciao Gianni, ciao. Fermati dove sei, non c'è bisogno di salire qua. Fermati dove sei, lo attacchi e lo stacchi, te lo dico io, si aumenta, che sono più distante. Adesso è attaccato. Ancora qui questo devo stare da alta, vai. Adesso, mi attacco lo stacco. Ok, adesso attacco la fa, per vedere se c'è la differenza. Già c'è la differenza, si aumenta anche la radio, però sei in movimento, ti devi fermare, fermati e poi rifai la prova. Allora dammi tanto di parte già, adesso non ci sta quando mi metto al traffico, mi metto. Avanti Gianni! Ma se tu vai su, te lo do io il controllo, non c'è problema, vediamo un po', ma comunque se te l'ha dato Claudio è probabilmente così, dai. Io non te lo potevo dare perché lì sotto casa eri 9.30, oh, con questa apparecchia arriva a, se fosse arrivata a 9.60 te l'avrei potuto dare, ma arriva a 9.30 questa apparecchia. Avanti Carlo, ciao Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Sì, come ha attaccato Bruno da 5 a 7, capito, però oscillava, quindi anche io ho immaginato fosse in movimento. Per diciamo qualcosa di preciso si deve fermare, come diceva Claudio, magari da una parte e poi attacca e riattacca e così è più stabile. Avanti Claudio. Sì, ciao a tutti e due. Infatti non si può fare perché ho visto il cambiamento. L'ho visto, però aveva QSB, quindi il movimento. Ti sei fermato, Bru? Da qualsiasi parte fermati. Sì, adesso sono fermato. Staccato. Ciao Claudio, sono 4 ore per vino, che tu sei un po' più distante. No, poco fa quando stavo salendo, era sotto casa di Gianni, chiaramente mi sentivo a forte. Allora, il discorso di questo microfono, mi pare che avevo già spiegato, è un baracchino di schifo, il microfono è normale, l'avevo anche comprato un amplificato, ma non funziona. Per cui diciamo che adesso dovrò provvedere anche un po' alla radio. E adesso è attaccato. Adesso sei attaccato o sei staccato? Adesso è attaccato, poco fa ero staccato. Adesso io mi stacco un attimino e cambio, capito? Così lo tolgo, perché adesso è inserito. Scusate, allora qua passi da 8 a 9 più 10. Adesso guarda, adesso è staccato. Adesso mi sono fermato, parcheggiato e mi trovo via Grazia della Valda Alta. Sei 8 qua, 8. Attacca! Se sale così è una bomba. Allora ti arrivano più forte di Gianni, fatti il conto. Se vuoi ti mando anche un video, non c'è problema. Vai da 8 a 9 più 10. Ma non avevo dubbi perché io l'ho provato qua, anche se ho dei baracchini vintage come quello che hai tu. Però ho visto l'assorbimento e quindi quando io vedo l'assorbimento vuol dire l'amplificatore sta funzionando. Non so se Gianni te lo può dare il controllo. Qua passi da 8 a 9 più 10 e aumenta leggermente anche la radio. Gianni? Il più piccolo sono io. Perché ti volevo chiedere se è molto rispetto un po' da fastidio alla batteria. Adesso già è attaccato, vai. Sì, 9.30 su DB. Non c'è andato che io arrivo più forte da lui e quando tu hai un antennone sei vicino a me, cioè c'è qualcosa che non... Vabbè, lui tira 9.30 perché sei vicino, però prova a attaccare a vedere se rimane sempre 9 più 30 da Gianni. Qua fai da 8 a 9.10. Il più piccolo sono io, buonasera a tutti. Vabbè, io sono stato costretto perché non mi sentiva nessuno. Adesso è attaccato. Non so se si può stare realmente sto modulando, aspetta. Ciao a tutti. Adesso è... Ciao l'amico, mi sembra Salvatore comunque. Adesso è staccato, dai. Guarda già. Prova di nuovo che non stiamo guardando. Minchia, ma quando facciamo i controlli state un po' attenti, e se no è inutile cazzo. Stiamo, quello entra più forte sono io. Un attimino, stiamo facendo una prova, sta provando un amplificatore, perché se non funziona glielo dobbiamo restituire. Allora, a me fa da 8 a 9 più 10. È possibile dare un controllo a Bruno? A me passa da 5 a 7, però la mia situazione la conoscete. Quando attacca sento aumentare anche la radio, lo sento più chiaro, capito? Quindi sta funzionando perché aumenta sia di segnale che di radio anche da me. Da 9.10 a 9.30. Oh, quindi ci siamo Gianni, la radio la notti? Sì, la radio io a Bruno gli consiglio, se sa bazzicare su internet, prenditi un KPO e un microfono amplificato che da grido, è proprio bello. Da me è a fondo scala, è proprio a fondo da me. Sento la radio che migliora, ma non va oltre. Ok, questo è molto importante per tutti, sia per Antonio, Carlo e Gianni. Quindi Bruno, il lineare funziona perfettamente, ma non avevo dubbi, se i dubbi c'erano, te l'ho detto, li restituivamo, non ce ne fotte niente. Però il lineare funziona, qua passi da 8 a 9 più 10 e ti aumenta leggermente anche la radio. Quindi per la macchina quel linearetto è eccezionale, poi te l'ha già detto Gianni, te l'ho detto io, l'abbiamo provato tutti quel lineare. Per la macchina è il numero uno, meglio di quelli della ZG. Ok, vai Bru. Ok, no, ma io non avevo dubbi, non ho detto niente. Stavo dicendo invece, adesso c'è il motore acceso, ma tu pensi che se spengo il motore sto mezz'ora a motore spento dia fastidio la batteria o no? Ti parte più la macchina. Gianni quello te lo può dire perché io in macchina lo usavo solo viaggiando e basta l'amplificatore, da fermo non lo usavo quasi mai. Gianni? Non ti fidare perché io la lasciavo accesa quando lo usavo da fermo, perché magari si scarica la batteria. Ti stavo dicendo, poi Antonio mi ha parlato sopra, se vuoi un buon microfono prenditi da internet il KPO, è un microfono eccezionale, poi te lo faccio sentire, va benissimo, è bello forte, ti può uscire forte anche di radio. Ma il problema non è quello, il problema è che non trovo uno che faccia, una volta c'erano questi sistemi per questi microfoni, perché io non mi metto più a pasticciare. Quello che io probabilmente è stato collegato male, bisogna trovare uno che faccia il collegamento oppure compro un microfono nuovo, ma poi devi trovare qualcuno che trovo piazza, perché, ripeto, questo che hanno dato a me non quando vado a sollevare il volume sembra che stai dentro un barattolo di fare di fagiolo, che fa casino. Dunque, per tenerlo al minimo preferisco lo staccato, lo messo via, capito? Una volta c'erano questi che si trovavano questi apparecchi, adesso non lo so. E adesso c'è qualcuno che lo fa, però bisogna contattarlo, dai. Non c'è problema. Tu prendilo, poi glielo piazziamo, dai. Però mi metto la seconda batteria. Comunque arrivi molto bene, Bru, arrivi molto bene, anche perché quegli amplificatori, come ti ha detto Gianni, sono buoni per la macchina, ma anche per casa. Vanno bene, hanno il finale a MOSFET, non ti fa saturare la modulazione. Peccato che hai questa voce cupa, ma derivata dal fatto che quel microfono non serve una minchia. Se avessi avuto un bel microfono amplificato saresti uscito una canonata veramente. Comunque sei abbastanza comprensibile tutto qua. Allora, tanto che sei l'ultimo entrato, ciao, buonasera. Buonasera, scusate se sono entrato un po', come si dice, un po' gareddo strano, scusate. Sì, no, va bene, caspita, vabbè, io non sento la differenza, perché anche chiudendo mi arriva molto forte, mi arriva, perché quando è avvicinato sicuramente, però cioè, quando attacca sento che la radio aumenta, capito? Però lui a me mi arriva sparato qua. Io non so dove è Bruno, comunque ovunque sia, io quando era giù nella zona di Gianni lo sentivo basso, metto il QRM, invece era 8, quindi poi è aumentato da 8 a 9 più 10 e va bene, la potenza la sta dando tutta. Va bene, Carlo, riprendi tu, io mi assento un attimino. Quando sei in postazione, dove ti metti sempre, Bruno, rifacciamo la prova, ok? Avanti, Carlo. Sì, Bruno, comunque la differenza, come ho detto prima, come attacchi e stacchi si vede, qua sali di 2 e aumenta la radio, confermo. Vuol dire che già sta andando bene se hai quella roba là, dai. Poi magari se dovessi salire da queste parti, non è sole, ti sentirò anche a fondo scala qua. Magari sei verso la zona più bassa ancora e quindi io sono in condizioni precarie, quindi non ti posso dare un controllo molto affidabile adesso. Vai Gianni, riprendi tu. Ciao Antonio, buonasera. Bruno, questo qui è il KPO, l'ho attaccato per farlo sentire, è a metà. Questo è la metà, lo guardo. Al massimo è così, guarda. Ma sono vicini, sto parlando troppo forte, capito? No, non ho dubbi, per carità. No, una cosa, volevo chiedere, adesso mi scusate, volevo chiedere una cosa, mi sono scusato. Cioè, non la ricordo la chiesa. Ok. Va bene, dai. Non ho dubbi che funziona. Vabbè, c'è l'altro amico che era Antonio, se non sbaglio. A me la radio che c'è non mi piace, è rauca, non mi piace. Fidati un microfono come si deve, Bru, perché questa radio non mi piace, Bru, ti dico la verità. Cambio baracchino adesso, c'è l'altro, questo qui è l'Inter, che metto lo Zodiac che funzionava meglio, capito? Io ti voglio dare una dritta e tu non mi vuoi ascoltare. Ascolta Gianni quello che ti dice. Pigliati un KPO, vedrai che migliori di brutto. Sì, io adesso mi devo ascoltare. Ma quello che io mi trovo, quello che mi ha dato, lo dico la frequenza. Sono sicuro che sono collegato male, perché tu il microfono dovrebbe essere un buon microfono, però ripeto, a me questo altro microfono non costa niente, ci vado poco, ma ne parliamo già. Vabbè, dai, vedi tu cosa fare. Carlo, riprendi. E niente, io questi giorni sono A casa, ieri ero di cena, ma sono rientrato tardi, perché dopo che sono uscito dal lavoro mi sono fermato ad Alghero, sono rientrato, sarà stato l'una alle due di notte. Niente, oggi di riposo, oggi sono uscito anche poco, stamattina mi ho terminato di sistemarmi, mi ho preso il lavabo nuovo per il bagno, con specchio, cassettoni, eccetera, quindi stavo lavoricchiando a casa, meno male, ho finito tutto, adesso mi stavo un po' rilassando al computer, capite? Allora ho acceso la radio e a fare quattro chiacchiere, che fa sempre bene. Vai Antonio. Capo. Pure io ho detto, ma adesso accendo a vedere chi c'è. Sono entrato un po' troppo a punta di piedi, c'è cioè un po' troppo veloce. E via. Oggi ho meno male che ho dormito la sera, ero stanchissimo. Cazzo, c'ho la macchina in officina con la frizione bruciata. Io non capisco, cioè io sono una persona che non tengo mai, poi mai, ma si deve, con la frizione c'ha 24 anni, prima o poi dovrà partire, se fai viaggi poi. Non tengo mai il piede sulla frizione io. Però è andato a mara. La macchina ha i suoi anni, è normale, se non è mai stata fatta si può anche consumare la frizione a furia di usarla, è come tutte le cose. Ce l'ha fatta già la macchina o no? No, tu mi hai mandato la maglia a torre la moto. Vabbè. Infatti, meno male che c'è la moto che ti fa da sostituta. Se sei stato a piedi come te lui ho 4 mesi a piedi. Figurati, ce ne so qualche cosa. In quel momento dicevo, mamma mia, se ce l'avessi avuta o no? Lo so, ma vabbè, adesso non posso più guidarla la moto perché sono a dolori e mi fa solo male guidare la moto. Mi piace perché mi piace, però bisogna dare un taglio, a una certa età bisogna dare un taglio. Avanti qua. Lo so, come tutte le cose, finché sei giovane le puoi fare, poi a una certa età molte cose ti devi un po', insomma, fermare, rinunciare, capito? Un po' perché la moto ti fa prendere freddo pure. E la frizione molte volte parte se la macchina è datata, non è detto, anche se uno non tiene mai il piede sulla frizione, ci sono quelle che difettano dopo un certo numero di anni e quindi vanno sostituite. Più che altro che sarà anche una bella spesa, perché per mettere tutto il blocco frizione, spingidisco, eccetera, non so che macchina sia, ma saremo intorno ai 400 e passa euro, penso. Addirittura, sarà intorno a 250 euro, sarà un abbunto, anche semplice, niente di che. Se mi domandano così, cazzo, lo metto a correre, se mi chiede così. No, troppo. Non stiamo parlando di una macchina, di chissà cosa, stiamo parlando di un appunto. Anche normale, niente di che, 1200 file. Posso capire il diesel che costa di più, ma cioè, un benzina costa anche molto di meno. Sulle 350 a 400 ti chiedo. Ma chi, a me? Vai, se mi domanda come già, ecco, se ottori male è scemo. Cosa vuoi spendere? 100 euro per fare la frizione, altro. Ci vuole disco, spingidisco, frizione, tutto il kit ci vuole. Ma sai quanto costa il kit di quella macchina? 70 euro costa a me. Sì, ma il lavoro che c'è per fare la frizione lo sai, sì? Vabbè, poi te lo dirà lui, no, io non voglio metterti problemi, dai. Te lo dirà lui quanto costa. Bruno, ci sei? Del 1600, 1900, quindi lì salivamo di prezzo. Capito, poi non so se mano d'opera è tutto, penso di sì, perché se lo paghi Antonio un kit completo con disco, spingidisco e tutto quanto, 80-100 euro, ci saranno altri 100-150 euro di mano d'opera allora, e con 250 se la cavi allora, meglio così. Mi pare che mi ha detto intorno alle 250 avevo una rana, mi ha detto così. Ma non è una macchina difficile, capito? Già si può fare. Quella è metà mattinata, te la fai, mi senti buon risotto. Che lavoro? Sta chiedendo una cifra, sta trattando troppo bene. E da 250 euro funziona in questa cosa. Se costa 80 euro stesso mi sembra strano, vabbè, niente, io sto costando 260 euro, però che prende da... Ma se ti fa se ti chiede 250 euro, c'è un appunto, ti sta trattando bene, ma che siamo di travaglio qui? Ma scommetti che cazzo non è più gana, cioè non posso farmela io, ma scommetti che vado domani cazzo me la posso da solo questa macchina, perché non ho il ponte, se no me l'avrei fatta io, cosa avevo un travaglio, non è appunto né ci gaggendi su Giambo ne farà, cioè non lo dico a me che per un annetto ci ho lavorato dentro l'officina, proprio appunto l'appunto file è la stupidaggine più grossa che si possa fare come macchina. Poi se parliamo del 1009 allora, o del 1003 multijet, allora sono due cose diverse, ma chi se lo sa come te ne impara, uno che è abile, io ho visto di quella macchina la pressione è fatta in 2 ore, me. Cioè, ma niente che è abile, me. Cioè fatta in pressa proprio. Ah, se io voglio dare un parlare, io sono un po'. Lo so, pensate, lo conosco il scritto, lo conosco, capito? Per cui, per quello che ho preso, lo so, lo so, lo so, lo so, ormai, sono tutti tanti, tanti giudizi, sono tanti giudizi, come devo dire? Ok. Claudio, ci sei? Sì, no, ma siamo amici, li faccio un sacco di piaceri io a me. È per quello che mi prende così poco. Siamo amici, capito? E io da poco cioè, sono andato a caricarmi il magima, le cose. Siccome lui non sa dov'è a Muros, dove c'è quel prodotto di Arborea, cioè ci sono andato io a comprare il magime, stamattina gli ho fatto una commissione con la moto, cioè siamo amici, capito? E cosa sta facendo? E già ne vabbè, io ti auguro che ti non possa gratis, Santu. Oh, yeah. Avanti, Carlo. Io non voglio parlare di macchine perché ho speso 830 euro per il piantone dello sterzo e in più ho dovuto pagare 120 euro alla Fiat per farmi spegnere le spie perché il meccanico che ha piazzato il piantone non aveva il macchinario per togliere le spie, cioè ce l'aveva ma era generico, ci vuole quello della Fiat proprio. Ho capito, sì. Ma comunque Antonio, in base a quello che mi ha detto, già è un ottimo prezzo quello che glielo fa un amico, conoscente. Va bene, la rimette un po' a nuovo con la pressione e sicuramente gli durerà ancora un bel po' di anni, perché quando gli mette la pressione nuova ti dura almeno altri 10 anni garantiti. Capito, se non di più, perché quel tempo lì ci vuole perché si consumi e si rovini. No, Gianni, Claudio aveva detto che si allontanava un attimo, che aveva delle cose da fare, poi già rientrerà magari. Ehi, vi siete sovramodulati, Carlo, non ho copiato nulla del tuo passaggio perché Bruno ti ha schiacciato. Se puoi ripetere quello che stavi dicendo perché non ho capito nulla. Ho detto che Claudio si è spostato, aveva da fare, poi rientrerà. Niente, è che Antonio con quel prezzo è un ottimo prezzo, stavo dicendo, già va bene, già va bene. Già lo credo, va bene. Io ho detto che sono annullato, non ho fatto apposta. Stavo dicendo che io ho sostituito il cambio a questa macchina, una Toyota, una Toyota piccolina, una Yaris, e questi portavano 1300 euro, infatti. E meno male che ho trovato un cambio usato di un'altra macchina incidentata, che l'hanno tolto un amico, mi ha cambiato di posizione e ha piazzato il cambio. E non ho trovato con 700, 750 euro. Ho messo tanto il carattere e mi ha costato 100 euro. Avevo chiesto a Toyota se revisionavano il cambio, perché loro avevano una fase di queste sostituzioni, mettono roba nuova. Vado, metto tutto loro, tutto quello che ho, metto uno. Io volevo da 3.000 a 4.000 euro, tutti di qua. E sono uscito sotto le 750 euro, mi pare, in tutto. Ma queste macchine da adesso ne hanno sempre una. Io quando c'avevo 127, che avevo la Opel, la Station Vego, non mi hanno mai dato problemi, mai. Ho avuto l'8 50, non mi ha mai dato problemi, che di solito le altre scaldavano, ma la mia andava a liquido, è sempre andata a liquido, quindi non scaldava, andava anche a nuvolo con l'8 50. L'ho portata a Rosseto una volta a fargli la messa a punto, mi ha detto, ma questa macchina è un orologio, ma chi è che la vedeva prima? Era di mio suocero, me l'ha data a me dopo. E la portava da Musa e via Gorizia, quello che prepara le macchine da corsa. Io la conosco, non ho conosciuto a Musa Vecchia, a Pasqualino, ho conosciuto il figlio. Io facevo meccanico negli anni 80, 70, 80, per cui quello si avesse. Allora, io ho avuto 850, scaldava, non c'è problema, allora facevo meccanico, nel 1980, 78, là. Gli avevo modificato il radiatore e messo il radiatore davanti, non ti dico altro. 127 ne ho avuto 3, non ti dico altro, ho avuto Volkswagen, no, pelle su tutti, io ho avuto di tutto. Adesso mi sono fermato alla Yaris, ho avuto 3 Yaris, questa è la terza Toyota che compro. Perché sono macchine che se si fa c'è il dolore, ma prima di rompere, tu avvio questa, sono da tanto adesso. Ma i pezzi costano un bel, ma comunque anche quelli della Fiat adesso lo scherzano. Io il piantone l'ho messo revisionato, perché nuovo costava 1200 euro mi pare, più la manodopera. Io l'ho fatto mettere revisionato, e quando è revisionato mi ha spiegato il meccanico mio che è come se fosse nuovo, che gli cambiano tutti i pezzi, è come se fosse nuovo. Sì, non sta scherzando. Io ho già piantone davanti alla mia moglie da cambiare, quella è Fiat, però ancora sta andando avanti, non è solo bene, ma c'è un vista. Il problema è che i pezzi vabbè, ma i meccanici ultimamente sto sentendo molte storie, stanno esagerando, molte storie. E il problema cos'è? Perché io, che ho una macchina, perché ho stampo, mi metto mano, c'è un garage, c'è un'altra fattura e mi metto mano. Purtroppo quando si ferma questa, che ha un sacco di centraline, di rottura di pale, di elettronica, non la posso toccare. Perché come ho detto, qua stavo parlando tu delle tarature, una volta staccata la batteria, fatto delle modifiche del piantone, hai detto qua io se dovessi mettermi a resettare il sistema, perché faccio qualche modifica, qua basta che io tolgo la batteria che manca la corrente, succede un casino, perché ti metti il computer e devi ricorrere alle tarature della teoria. Adesso vado a poco non si fa, per carità, anche nelle Fiat. C'è un ex meccanico, un amico della Fiat mi ha spiegato come fare a resettare la macchina di mia moglie, ma non ci seguo io, come si accende la spia che va in tilt sul motore, qualche cosa, non come fare. Però la macchina è moderna, non li puoi toccare, perché ti faccio una centralina e costa 800 euro, molta macchina costa anche 2000 euro una centralina, e non li puoi vanuta, Bruno, la mia, non lo so se quella di tua moglie è così, ma la mia è diventata lo stesso durissimo, solo su strada si sentiva meno, ma se dovevi fare manovra è presente quel camion senza servostesso, la stessa cosa, di rivaravare i brazzi, non potevi sterzare, poi mi ha detto se continua così fai più danno, solo che poi il mio meccanico è andato in ferie, l'ho dovuto portare da un altro che era un qua, non era un meccanico, capito? Praticamente mi ha messo un piantone senza togliere la codifica del piantone vecchio, quindi quando l'ho portato alla Fiat l'hanno dovuto decodificare e ricodificare, per quello mi hanno preso 120 euro. Lo so, quindi. Infatti io ho andato in tutti, ma me l'abbiamo fatto due o tre volte, anche il numero uno, questa è la cosa. Ho parlato con un amico, che ho lavorato in questo senso, mi ha detto guarda, non mi sono stato più questo, non ho fatto così e così, allora mi ha fatto perché c'è un problema, tanto me lo stesso. No, la volta che leggere, che fatto che fanno io l'altro, quando c'è tutto sospetto, fa crac crac crac crac, sembra che stia macchinando qualche cosa, capito? E adesso vado a fare anche più, può anche essere un problema elettrico, è anche pericoloso, non andare tutto sospetto, magari fai attenzione se senti questo rumore, ti arriva subito. Ma la che andiamo di avventare. Sì, ma la mia c'aveva 42.000 km quando l'ho portata, 42.000 km, non ti dico altro. E purtroppo le ho dovuto fare anche la cinghia di distribuzione perché la mia aveva 5, quasi 6 anni quando l'ho portata, le ho dovuto fare anche la cinghia di distribuzione perché dopo 5 anni si deve cambiare in quelle macchine. O 5 anni o 100.000 km. No, io qua a cinghia di distribuzione che mi fai di far qua a 5.000 ma poi stava dando per 120.000 km all'introduzione, solo che io non è che ho fatto 120.000 km, a 70.000 km ho cambiato, mi faccio una messa a punto di studiare, da poco ho cambiato le candele, dopo tre candele di questa macchina, le candele sia, costano un blu, io credo di una, perché ho preso una, tre candele di questa macchina, le ho pagate 127 euro, per dirti com'è la Toyota, però se fai chiamare, ma ti devo comprare pezzi, qua, il filtro dell'olio, lo compravo sempre l'originale, 24 euro. L'altro giorno sono andato a un ricambista, sono uguali, 7 euro ho pagato tutto, per dire, no? Ma quelle cose le puoi anche, il filtro dell'aria, quello che tu non lo fai più. Ma se devi toccare l'elettronico, devi andare da concessionario, non andare in là. Sì, infatti. Perché gli altri, allora guarda, il mio meccanico, quello che è andato in ferie, quello dove vado sempre, è molto attrezzato con queste cose, anche di elettronica, perché fa i corsi sia di elettronica che di meccanica, perché adesso l'elettronica e la meccanica sono insieme e bisogna fare entrambi i corsi, e si è comprato praticamente l'ultimo, come si chiama, l'ultimo test che fanno le macchine, come cavolo si chiama, l'appalicchio, si è comprato l'ultimo che c'era e non c'era quello della Fiat, ha provato, ma ha provato a togliermi le spie, non lo toglieva, mi ha detto già, qua c'è un altro problema, qua sicuramente hanno lasciato il vecchio numero di codice ed è da decodificare, sicuramente non esce per quello, perché sennò questo qui è l'ultimo apparecchio che hanno fatto e sono proprio aggiornato, io li compro tutti nuovi e niente, non è riuscito a toglierlo, mi ha detto vai alla Fiat e vedi, alla Fiat mi hanno detto che se, chi te l'ha messo il piantone, gli ho detto un altro meccanico, ma non devi fare così, devi venire qua, perché qua noi te lo piazziamo e ti diamo la macchina in ordine, non te la diamo con le spie che si accedono e cose, paghi un po' di più, però almeno il lavoro è fatto bene. Non è giusto, ma io già lo so, ma sai cos'è? Adesso, con tutto quanto questo tipo di autovettura, non è che tu compri quello strumento e poi sarà riuscito, no, se compri il programma, il discorso è diverso, perché c'è un amico che lo vende. bene queste apparecchiature. Per cui, se tu, e i programmi sono annuali, per avere questo programma, se te lo controllano loro, a secondo del periodo, fai dei sacrifici. Per cui non tutti comprano un programma completo che ti faccia lavorare tutte le macchine. La metà gente all'anno magari non rinnovano e vanno in scadenza e non hanno più le apparecchiature. Per cui se tu potessi comprare un computer e lavorarci, sono macchine che sarebbero fatte, allora per loro rispetto, adesso con la meccatronica tu compri il programma, tu compri la caricatura da loro, te la fornisco, però lavori soltanto su alcune persone. Per cui molte volte secondo la macchina di riposo non ci possiamo lavorare. Ma posso? Ma cosa rompa l'energia K le tue? Come le mie? Candele, sto dicendo, l'energia K monta. Ma a già mi stai dicendo? No, a te, nella tua macchina cosa metti? Energia K come candele? Ah, boh. Dico la verità, che la tua sono come ricordo, sono quelle... E la macchina stanno dando, le candele stanno dando per 30.000 km, ma io tutti gli anni faccio 10.000 km, però stanno rubando. Allora la Toyota ha due tipi di candele, quelle normali e quelle che loro se ne danno per 30.000 km. Allora, stanno facendo 30.000 km, quante candele che mi hanno dato adesso sono cose due cilindri. Non è macchina a benzina, ma quelle che vanno a gas, le candele, quando me le va a cambiare sono sempre pulite. Dice cosa le cambi? Sono pulite, sono nuove. Ma adesso stanno montando quasi tutte energia K, perché sono eccezionali come candele, sono molto buone. Ma le candele della Toyota? La Toyota che non te la dà, che è grado tecnico, capito? Io ho provato a chiedere, mi hanno detto, vabbè, con la Nisco abbiamo dato il manuale che ti aveva avuto la Nisco, che sono le equivalenti. Però la Toyota, te le segna, come Toyota, non ti dà la marca, capisci, sono candele loro, la Toyota te le fa fare da una fabbrica le candele. Adesso se metti il grado tecnico, tu leggi Toyota, non leggi altro, capisci? Poi vabbè, ci sono quelli che ti dicono, vabbè, devo chiedere questo, non è questo, invece è indicato quello che vuoi. Però ripeto, io per evitare questo, le candele sono andate io. Questo non può, però come ti ripone i voghi, Ma se andi da cosa, da Stefano, il 4 novembre, ti dirà. Sicuro che ce li ha. Io ho provato a chiedere anche il grado termico e tutto, loro dicono le candele, quindi le candele sono tutto io, non sono tutto altro, non sono tutto altro, non sono tutto altro. Sto dicendo che cosa? Cazzo, se si è fasciato, e se si è rotto una vite del parasole, il parasole ha perso il braccio, veramente. Una vite del parasole, c'è qua. Sono andato là, mi ha detto guarda che non c'è rotto il parasole nella casa, allora quando il parasole nuovo. E mi ha detto questo ricambista che mi conosce, che l'ha sempre lì. Che è perso due sapere. E a giudizio non sarà un parasole che mi ha fatto avventare. Aspetta che ti dico prezzo, mi ha perso il braccio, volevo 87 euro. Ha giubilato una vettina, l'ho aperto, l'ho fatto, gli ho suonato il perfetto. Cioè, prezzi di mica macchina non si deve occupare. Io non so qui. Qui alla concessionaria non conviene andare a fare l'italiano di queste cose, non conviene. Si bigliano una vacca di dinà. Vabbè, avanti Carlo. Sono io e le macchine, anche io da poco avevo fatto la distribuzione perché dopo tanti chilometri mi avevano detto che andava fatta. Ho cambiato dischi, pastiglie, capito? E sarà un paio di settimane fa, 250 euro dischi e pastiglie, capito? Invece per la distribuzione mi sa che ho pagato un 300 euro, però circa 7-8 mesi fa. Faccio un po' a pezzi per non avere le spese tutte insieme, perché io ci viaggio con la macchina quasi tutti i giorni, per cui faccio un bel po' di chilometri. E se riesco a tenermela altri 5 anni, capito, poi la cambierò, ma mi prendo una macchinetta per la città quando vado in pensione, quando finisco, capito, se no sarà presso alle macchine, oiaia, ci vuole sempre il portafoglio gonfio. E Bruno, dimmi una cosa, ma sei fermo adesso? Perché il segnale è stabile. Sì, sono fermo, però siccome sento il motore ho staccato la spada, perché prima avevo sempre lì, avevo sempre il motore, acceso, al minimo, dato che si stava ancora la batteria. E io lo stesso la penso come te, la mia macchina, se la vedi è come il giorno non l'ho comprata, io sono anche stancato, sono un bel garage, sono l'altra fattura. La mia macchina ha 10 anni, ogni 5 anni io cambiavo la macchina, sono andato a versarla, mi volevano dare 2 lire e la macchina usava per tutti. Allora, guarda, io me la tengo, quando mi sono stufato, o la regalo a qualcuno che non ne ha, però io la macchina non è verso, perché solo quest'anno avrò speso 3 o 4 mila euro, soltanto quest'anno per la macchina, e questo mi volevano dare 5.400 euro. Oggi ho fatto 4 gomme, ho pagato 500 euro di gomme da poco, ma questo è così figli, quando servono per fare la macchina. E allora, siccome io ho sentato solo la macchina è una grazia perfetta, dentro, il motore è proprio, da un po' di chilometri, ma come li faccio io. E poi, ripeto, io non sto più viaggiando, io ho viaggiato tanto, sempre viaggiato. Allora avevo delle macchine. Macchine veloci, macchine importanti. Adesso che sono in pensione, una Yaris, a voglia che mi basta. Hai detto bene, sì. Una macchinetta piccola poi già va sempre bene. Sì. Allora Antonio, quindi adesso sei senza, ma penso che te la farà anche abbastanza veloce, dai. Vedrai che un paio di giorni, se si mette, come hai detto prima, una mattinata di lavoro e ti cambia tutto. Oh Carlo, alla mia gli ho fatto lo stesso lavoro, gli ho cambiato dischi e pastiglie. Allora io ogni volta che vado a fare il tagliando, prima cambio quelle di davanti, le pastiglie, e poi quelle di dietro. Le avevo fatte tutte e due, e però non, praticamente frenavi e nel disco che si vede dai cerchi in lega si vede che frenava male, c'era solo una parte del disco dove frenava. L'ho portato al meccanico, come te sicuramente si è incantata la molla, invece l'ha smontato e mi ha detto no, già non è la molla, no. La molla è perfetta, non c'ha nulla. Poi sai cosa è successo? Che qualche cane ha fatto la pipì e ti ha tutto arrugginito l'ingranaggio, eccetera eccetera, e vuole tutto sostituito il disco, perché se no non frena più. Come ha sostituito il disco e pastiglie, è andata bene. E anche io 230 ho pagato, la stessa cosa. Vabbè già, ma questa del cane va affrontata, non c'è un pezzeria. E dire la macchina aveva un problema e non è certamente dovuto al cane. Io questi giorni, grazie a Dio, visto che stiamo parlando di freni, che sono consumate le pastiglie, ho visto il livello del freno che è sceso, ho controllato le pastiglie, sono a zero. E siccome la mia macchina è così 50.000 km, posso cambiare i dischi, ma i dischi hanno fatto un solco, frena bene la macchina, ma devo cambiare pastiglie e dischi. E non li metterò originali perché sono solitario e ho tagliato un sacco di soldi. Adesso vado in concorrenza, che funziona ugualmente bene, e li metto quelli lì. Perché se no, la Toyota mi uccidono. Bruno, le pastiglie erano nuove, capito? Ma non frenavano. Perché ha marcito tutto, la pipì del cane, lo sai come, no? C'ha ammoniaca e cosa, anche la nostra è così, ha l'ammoniaca e ti rovina tutto. Purtroppo mi ha detto o è cane o è qualche gatto che ti ha fatto, ci sentiva l'odore, ha detto. Ragazzi, appena io non ci credo a questo consiglio là, adesso ho dato una pipì del cane, che è acciaio, è la bulloneria, è acciaio. Può prendere appena di ossido, ma l'ossido è poi una cosa che si rimedia, ma non che fa già ribetti, no? E quella lì chissà che cosa aveva, ha lavorato male, la pista, qualche cosa è il problema da quello, una molla tutta lenta, Ma c'è tutto, solo io a queste cose, non ho raccontato queste cose, forse perché ci ho lavorato, ho fatto un lavoro e ci credo poco se ho fatto queste cose. Nel caso mio, me ne sono accorto l'altro giorno perché stavo controllando il liquido dei treni e ho visto che è a zero. Ho detto a zero, non c'è perdita, dunque cosa succede? Non sto spingendo i cilindri fuori, mi sono tornato a un livello. Questi giorni compro materiale, se non me la faccio in garage da me, da una mia amica, c'è la piscina, e la facciamo un'oretta, un'ora e mezzo, che avevo dischi da schiena, no? Non ho soltanto, se vado lì perché ho anche problemi di schiena, perché sono lì, perché sono lì a lavorare in un'officina con me, per cui adesso siamo anche più giorni, non stiamo in mezzo. Sì, Bru, ma io ti contraddico perché la pinza funzionava bene, perché non gli ha cambiato nulla, la pinza non gliel'ha cambiato. Come ha piazzato quello nuovo, ha funzionato bene, come si spiega? Mi ha fatto vedere il disco, era tutto quanto ossidato, tutto busuale. E dice, ma dove la tiri fuori? E sì, e allora qualche pisciata di cane che o di gatto. Vabbè, poi, se è vero o no. Il mio meccanico non è un qua, è un professionista. Non mi metto in dubbio, però io ti posso assicurare che quando il disco fa quel difetto è soltanto perché la pinza con la pastiglia del freno sta consumando un latte, da una parte tocca e dall'altra parte non tocca. La parte che non sta toccando, chiaro che prende l'ossido, si arrugginisce, perché non sta lavorando per una pastiglia, e il disco lucida. Quando tu vedi che ci sono dischi di freno che sono ossidati o arrugginiti, è soltanto perché la pastiglia sta lavorando di traverso, o un piccolino sta spingendo più dell'altro. Ma ti dico una stronzata che però è la verità. Ricordati che la macchina che viaggia sempre con una persona che ha peso, le pastiglie di freni consumano sempre dalla parte dove c'è l'autista, perché tende a curvare sempre una fesseria, però quando tu fissi il freno da quella parte dove c'è l'autista sta facendo più fatica da tutela. Non è una possibilità di scattare, eppure funziona lui. Per cui, se lui vede il disco che non sta lavorando, sta tranquillo, però è certamente scattato. Poi, lui non ragiona a modo suo, Io dico la mia. A me mi pare che ti l'ha bruciato di su, meccanico che tu hai buttato una macchina che l'ha pigliata per provarla, se vuoi a correre, magari ce la fa appena appena di rugginella, come te la va a frenare, che ti ha fatto danno di su, perché prima non erano così le pastiglie. Ma le pastiglie erano nuove, tu le avevo cambiate ultimamente, capito? La pastiglia non c'aveva nulla, io ho detto controllami le pastiglie perché vedo che praticamente consuma, lavora solo sulla parte del disco. La smontate, mi ha fatto vedere i dischi, erano tutti quanti, capito? Erano tutti ossidati. Che non stavano, come ti sto dicendo io, quando sono ossidati, la pastiglia del freno non sta toccando, soltanto perché sta lavorando un po' di traverso. Uno si mette dell'altro, oppure se quella centrale sta facendo lavorare, la pastiglia un pochettino di traverso. E se la pastiglia non comprime tutto il tutto da una parte. E in questo caso tu cosa faresti? Ma non metto, allora, il discorso è questo. Il disco tu lo controlli, vedi se c'è usura, è consumato da una parte, si vede perché fa una rigatura al disco, no? Si vede che scende un pochettino di consumo, c'è, per cui se vedi che la pastiglia se ne è andata dentro, si è mangiato un po' il disco, chiaro, io ho questi giorni. Il disco, io li ho controllati, i dischi miei hanno un gradino perché se cambiato una volta le pastiglie hanno lavorato bene, però il disco si è consumato, fa un gradino, si sta sottiliando, chiaro che adesso li metto lungo. Però se avessi visto che una parte del disco non stava lavorando, si stava rigenendo, stai tranquillo che non c'entra niente del discorso che ha fatto lui. Perché? Perché se la pastiglia tocca il disco te lo lucida, ma stai scherzando? Io ho visto tutti a due giretti, una macchina parcheggiata due giorni con l'umidità. Però è quella ruggine leggera leggera, che quando tu vai a partire, dopo il frenato sparisce tutto. I dischi devono essere, nelle partite stanno lavorando dritte, i dischi devono essere lucenti. Poi può succedere di tutto, ma io la penso così. Poi. E vabbè. Io ti ho detto ciò che mi ha detto il meccanico, poi non so, forse li ha cambiati anche perché ha visto che c'è la usura, non lo so. Comunque questi che ha messo sono di marca, ha messo pastiglie di marca, dischi di marca, che praticamente costavano molto di più, me li ha fatti pagare meno, me li ha fatti pagare a prezzo come li danno a lui. Avanti, Carlo. Sì, sì. Per cambiare discorso già, una piccola domanda. Ti è piaciuto il cagnolino? Bellissimo, bello, bello. Io pensavo che fosse il tuo, caro. Tu, almeno li fa compagnia, eccetera. Però tu stai lavorando. Vabbè, io a te l'ho abituato. Stavo anche 8 ore senza vedermi. E poi come arrivavo, la prima cosa che facevo lo portavo giù. Lo portavo a correre, a fare. E lui si è abituato così. Io se esco da casa, vado a fare la spesa, quando ritorno mi fa le feste, non fa danni, non fa niente, si curica, c'è la copertina sul divano, si curica lì e mi aspetta. Ehi, accappano, io l'ho preso a mia figlia che era da un sacco di tempo che lo voleva e allora era il suo compleanno il 1° di novembre e gliel'ho procurato, è piccolino, un bassotto di quelli tradizionali, bassotto italiano, già l'hai visto, è femminuccia. E oggi gli ha fatto il vaccino e tra qualche giorno deve andare a mettergli il microchip, però va all'ASL di Porto Torres perché quella di Sassari dice che ha dato gli appuntamenti a dopo dicembre, capito? Ma lo fa anche il veterinario, lo fa anche il veterinario, paghi però te lo fa anche, ma io l'ho fatto dal veterinario. Sì, sì, ma lei ha detto che il veterinario gli ha chiesto 30 euro, invece dice a Porto Torres glielo fanno gratis. E ho detto, allora se ne hai voglia vai a Porto Torres, te lo fai fare là. Ah beh certo. E dove lo fanno? Al canile? Non ho idea, lei si è preso l'appuntamento, eccetera, che l'altro giorno ce l'avevo io a casa quando gliel'ho dato, quindi lei mi ha fatto le fotografie, capito? E me l'ha procurato un mio collega che aveva la femmina che ha fatto la cucciolata, capito? E quindi me l'aveva promesso e me l'ha dato e me l'ha regalato praticamente, non mi ha fatto pagare niente. Ah, buono, buono perché costano anche quei cani. Vabbè, è stata contenta tua figlia? Sì, sta impazzendo adesso con questo cane, capito? Vabbè, riprendiamo pure il discorso di prima, una piccola parentesi, scusa Bruno e Antonio, non so se è rientrato Claudio, va bene dai, riprendi tu Antonio se ci sei, oppure Bruno. Ehi, comunque come parentesi, non preoccuparti che noi siamo tutti canini, io sono gli ufficiali, sono il 3° e 4° gli ufficiali che ho a casa, poi alla fine c'è attenzione come andano loro. A casa mia c'è una scala gerarchica, c'è mia moglie, il cane e poi arrivo io. Lui comanda più di me. La condanna ce l'ho io, ve lo porto fuori 5 volte al giorno, l'abbiamo abitato male. 5 volte al giorno esce, adesso esce. Ma non torno, non sono nuovo, non l'ho messa. E poi vabbè. Guarda che però fanno di tacchiare. Se prende già. Cavolo, a proposito di cane, dai, io vi devo salutare perché Tyson è venuto a chiamarmi. E lui è puntuale. Quando è l'ora mi viene a avvisare. Dai, ci sentiamo, grazie per il QSO, saluto tutti cordialmente e distintamente. Saluto anche chi c'è l'ascolto. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Sì, alle prossime. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ma ti devo chiedere Bruno, ma cosa c'è tu, quella a 3 cilindri? Sì, quella a 3 cilindri. l'ho provata, un po' così, no? Non è che non va molto. Non va molto, però tu dici che sei in questa macchina, no? Ad essere superiore alla media. Questa è un 1000 che è, io parlo 140-150, non si sente una vibrazione, non sente niente. Poi se tu conosci la Toyota, sappi che c'è un sistema, indiano pulsante, ti dà tutta la potenza, vedi la gomma, questa macchina striscia le gomme e ripresa, che è una cosa pazzesca. Per cui sta parlando di questa terza serie. La macchina è comoda per me, come dire, io ho avuto tante macchine, ho avuto nella mia carriera tante, ma questa è una macchina che è silenziosa. Quando io usavo le Fiat, quando ero a 120-130 sembrava che stavamo uscendo in Europa, però tuttora era una Fiat. Questa è una macchina che è inclusissima, macchina molto veloce, e in più c'è questo sistema che un tasto da tutta la potenza. Infatti io l'ho sempre usata normale, perché diciamo tutto di utilizzare con quel sistema lì, come sono tutti sì, ho capito. Boh, forse ho usato l'altra serie. Sì, già andava, ma non era tutta quella. Bah, era un po' fiacca come macchina. Quella non, la terza serie non l'ho ancora provata. Però quella che ho usato io era un po' così. Non mi diceva niente. Sì, a me la andava, ma non mi diceva nulla. Bravo, perché io faccio questo veloce, magari hanno qualche problema con questa sottoluzione, c'è un sistema che se hai necessità di partire a raso, c'è un pulsante, sta cascando per cercare le ruote. Infatti diciamo che tutte altre si usa in ripresa, quando sta viaggiando con le tappe. Avanti Gianni era andato via. Allora io sono arrivato all'orario, anche io sono da portare a spasso, come dicevo prima, a casa come dal cane, quando arrivo adesso sono da via. Per cui approfitto il microfono per salutarvi e spero di divertirvi su presto, là, cercherò di rientrare in sequenza. Ciao a tutti. Ciao Bruno, ci sentiamo alle prossime, dai, non ti preoccupare, tanto anche io tra un po' stacco tutto, mi saluto Antonio, vado a prepararmi la cena, perché se non lo faccio io lo devo fare io, capito? Sono a rasora e quindi mi do ai fornelli adesso. Non parliamo dei fornelli, guarda, che mia moglie lavora, dunque il mezzogiorno. Pranzo lo preparo io, lei lo prepara la sera, per cui non ne posso più, io me ne voglio tornare al lavoro, non ho più gamma di fare la conso. E anche tu già sei messo bene allora, Bru. Va bene, riprendi Antonio. Non ho capito il discorso perché c'era mio figlio che mi ha interrotto. Ciao, sentiamo. Ciao Bruno, già ci si sente alle prossime, va bene. Antonio, anche io ti saluto come avrai sentito prima, vado ai fornelli a prepararmi la cena. Ok, la cuoca in pensione mi ha dato. Ok, dai Anto, alle prossimine allora, un caro saluto anche a chi è all'ascolto, grazie del QSO e buonasera a tutti. Ciao. Ciao.